Voci d'impresa. Vite e storie dietro l'azienda. Alfredo Moratti, obiettivo grande distribuzione, di Alessandra Scaglioni. Ogni giorno 50 camion carichi di patatine fritte escono dagli stabilimenti di Amica Chips. Sono 50.000 cartoni di patatine dirette ai supermercati di tutta Italia. Alfredo Moratti ha fondato l'azienda all'inizio degli anni 90 assieme al socio Andrea Romano. L'idea gli è venuta mentre faceva un altro lavoro, il trasportatore. Io mi trovavo a gestire un'azienda di trasporti, avevo 27 anni, e gestendo questi trasporti mandavo quotidianamente tutti questi camion a caricare nelle aziende limitrofi della zona, panettoni, scarpe e patatine, per cui ho avuto l'idea, la curiosità più che altro, di collegarmi a un'azienda nota di patatine di allora che produceva per un'azienda altrettanto nota con sede a Milano. E da qua mi sono fatto una domanda molto curiosa, mi sono chiesto chi poteva mangiare tutte queste patatine, perché mandavamo 5, 6, 7 camion al giorno. Tutte queste patatine dovevano finire, questa è stata l'idea. Ma concretizzare questo progetto ha richiesto alcuni passaggi: la conoscenza del mercato e della produzione, una prima esperienza con una piccola azienda durata alcuni anni. Chiaramente ci sono stati un po' di problemi dal dire al fare, perché dal momento che gestivo i trasporti non avevo nessuna esperienza per quanto riguarda impianti, macchinari e alimentare, però mi sono andato da fare e ho incominciato così, proprio come in un copernoncino piccolo, a confezionare queste patatine e vendendole sul mercato italiano, chiaramente. La prima esperienza è nata con un'azienda di cui eravamo in società due persone. Siamo stati assieme 8 anni e dopodiché, come tutta la società, difficilmente si va d'accordo, specialmente col carattere che ero io, che non mi ritengo una persona facile comunque. Dopo 7 anni ci siamo separati e io ho fondato l'Amica Chips esattamente nel 1990. E dalla prima esperienza Alfredo Moratti ha maturato una convinzione che caratterizza oggi la strategia di distribuzione dell'azienda: rivolgersi a ipermercati e grande distribuzione. Arriviamo all'inizio della storia. Chiaramente l'esperienza che ho avuto nel passato è stata molto importante, perché ho scelto già di fare una strategia sulla rete commerciale. Mentre con la prima ho fatto la rete commerciale dell'ingrosso tradizionale, con la seconda sono partito convinto di fare la rete commerciale della grande distribuzione, della distribuzione organizzata e degli ipermercati. Proprio in quell'epoca, 20 anni fa esattamente, nascevano i primi ipercoop, e mi ricordo il primo ipercoop che abbiamo fatto è stato quello di Ferrara, che è ancora tutto il nostro cliente, e da lì a catena li abbiamo fatti tutti. C'era già la catena dei Finiper, praticamente i primi sono stati gli ipercoop e poi a catena li abbiamo fatti tutti. Anche in questa avventura Alfredo Moratti non è solo. Amica Chips nasce dal sottoscritto, dal signor Romano Andrea, che è con me dall'inizio dell'Amica Chips, e ha sempre seguito la parte commerciale sin dall'inizio e tuttora si occupa della clientela sia in Italia sia all'estero. Dopo 1 anno e mezzo arriva un incontro che rappresenta una svolta importante per l'azienda. Per fare un'azienda ci vuole anche un po' di fortuna nella vita, no? Dopo 1 anno e mezzo che è partita l'Amica Chips, abbiamo avuto così, tramite una persona amica, l'occasione di entrare negli uffici di Esselunga, e da lì l'Esselunga abbiamo cominciato a fare le patatine per loro, a private label, che tuttora gliela stiamo facendo, e in questo momento penso che sia molto rappresentativo fare il marchio Esselunga. Oggi Amica Chips è presente nel 90% della grande distribuzione in Italia. Produce patatine fritte, ma anche snack, arachidi, grissini, prodotti da forno. Una crescita determinata, oltre che dal continuo aumento della presenza nei punti vendita, anche dalle acquisizioni. Per crescere, una volta che un'azienda è presente in tutti questi punti vendita, per crescere la strada più facile ma più difficoltosa poi da gestire è acquisire marchi. L'abbiamo fatto in 20 anni, abbiamo acquisito 3 marchi, alcuni importanti, alcuni meno, però chiaramente ci siamo tolti dei concorrenti e il fatturato l'abbiamo inserito nel nostro gruppo dell'Amica Chips. Un marchio Dorita era una zona lì del Mantovano che è nato 5 anni dopo di noi perché ci hanno copiato. Però copiare non è sempre così facile, no? Sarebbe come io dovessi copiare a fare le televisioni come Berlusconi, sicuramente fallisco dopo 2 giorni. Poi abbiamo acquisito un marchio molto importante, presente sulla zona Milano e Lombardia, che è il marchio Pandal, che oltre a patatine fa altri prodotti tipo panificati, cereali di prima colazione. E per ultimo mi ha acquisito un marchio storico nel Triveneto che si chiama Mia, patatina Mia, che c'è da circa 40 anni. Per cui con questi tre marchi, più il marchio Mica Chips, oggi abbiamo una quota di mercato del 26-27% a livello nazionale. Oltre alla strategia nella distribuzione e alle acquisizioni, c'è anche un'altra caratteristica del prodotto che ha portato agli attuali risultati. È la confezione. Noi abbiamo puntato, chiaramente è una confezione diversa dal mercato, perché le patatine in Italia ci sono l'azienda che oggi detiene le maggior quote, è nata nel 1940. Noi abbiamo puntato sin dall'inizio su una confezione diversa, su una confezione trasparente, dove la gente è più così stimolata e emozionata, perché il prodotto di patatine è molto di impulso e non è la signora quando fa la spesa si scrive nell'elenco devo comprare le patatine, se le vede, se gli dà fiducia, secondo noi le compra, chiaramente poi se sono buone le ricompra. Questo è stato un successo perché oggi noi con le trasparente siamo leader in Italia assoluti e la nostra confezione da mezzo chilo è quella più venduta a livello nazionale. Amica Chips ha puntato molto anche sulla pubblicità e sulla riconoscibilità del marchio attraverso pubblicità non canoniche, come quella fortemente allusiva, che vedeva protagonista il pornodivo Rocco Siffredi. Un'azienda si deve così presentare sul mercato e deve farsi anche conoscere. Allora, sin dall'inizio, dopo circa 2 anni, avevamo già fatto della pubblicità in Rai. E mi ricordo che il primo testimone che abbiamo usato era allora Stefano Tacconi, allora portiere della Juve per 10 anni. Per cui da lì abbiamo fatto diversi canali di pubblicità in televisione, carta stampata, negli stadi. Abbiamo sponsorizzato delle squadre di Serie A, abbiamo fatto per 3 anni il Giro d'Italia a livello di sponsor primario e poi vari passaggi nelle televisioni, Mediaset e Rai. E noi abbiamo avuto un grande successo, penso che lo sappiano un po' tutti, 5 anni fa quando abbiamo avuto, non so, per alcuni geniale, per alcuni no, la geniale idea di prendere come testimone Rocco Siffredi. Si è parlato, ce l'hanno censurata, però il fatto che ce l'abbiano censurata probabilmente ha portato anche dei vantaggi, perché così tutti i giorni eravamo sui quotidiani, su web. Comunque ne hanno parlato, erano torri delle marche, chiaramente noi poi abbiamo fatto un'analisi e è cresciuta di parecchio. L'azienda sta iniziando a rivolgersi anche al mercato estero, dove oggi è presente in diversi paesi con una percentuale non ancora significativa, ma in crescita. Noi oggi abbiamo aderito a una società molto importante che si chiama Italia del Gusto, dove sono tutte le aziende rappresentative nell'alimentare, non cito i nomi, però sono tutti leader, e chiaramente con questa società facciamo diverse fiere nel mondo, abbiamo fatto una a Dubai, una in Cina, abbiamo meno finito di fare il Siela a Parigi, adesso facciamo Colonia a gennaio, e questo ci aiuta molto, perché andare da soli sarebbe un po' così, non rischioso, però con pochi risultati. Siamo in 23 aziende associate, la cosa è molto positiva. Produzione concentrata nella sede di Castiglione delle Stiviere, nel Mantovano, con 2 unità produttive, 200 dipendenti interni e 50 collaboratori esterni tra trasportatori e autisti, e un fatturato in crescita, nonostante la crisi si senta, e a volte gli investimenti non diano risultati all'altezza delle aspettative, anche per motivi politici. L'ultimo fatturato, anche se in Italia non c'è questa grande euforia, perché sappiamo tutti che la crisi c'è, va avanti e secondo me non finisce qua. Noi come fatturato abbiamo chiuso il 2009 a 66 milioni di euro e quest'anno siamo più 6% sui 66 milioni. E prevediamo nel 2010 di tenere questo passo, questo ritmo. Chiaramente per fare questo bisogna investire parecchio, perché visto che non c'è la gente, purtroppo sempre meno soldi da spendere, e anche se la patatina è un prodotto povero, però quando le persone, il nostro target di consumo che va all'ipermercato e il carrello a metà, vuol dire che la patatina invece compra tutte le volte, la compra una volta sì, una volta no. Non voglio fare polemiche, però visto la nostra politica italiana io penso che oggi nessun imprenditore abbia questa voglia tanta di investire. Io penso che se fosse una stabilità così, politica più tranquilla, potremmo andare avanti con l'idea che abbiamo di investire gli utili sempre nelle nostre aziende. Però chiaramente bisogna che ci siano anche i consumi. Negli stabilimenti dell'azienda si friggono più di 2.000 quintali di patate al giorno, che provengono da tutta Italia e anche dall'estero a seconda delle stagioni. Dobbiamo fare il giro del caldo, il giro del sole, del clima. Allora, noi cominciamo a portare le patate da Napoli nel mese di maggio, perché a Napoli fa più caldo, per cui crescono due mesi prima. Poi da Napoli ci trasferiamo sulla zona veneta, cioè Ferrara, Rovigo, queste parti dove c'è un clima molto caldo, più caldo di notte, perché sono coltivate vicino al mare. Da lì si va fino a giugno-luglio e poi da settembre-ottobre vengono coltivate nella zona normalissima, Lombardia, Emilia e sempre Veneto, non so, Brescia, Mantova, Padova, Cremona, questa zona qua. Fino a in questi periodi che è novembre. Dopodiché in Italia le patate non esistono più, non c'è più raccolto, perché la patata dura massimo tre mesi, anche stoccandola in magazzini appropriati, giusti. Allora ritiriamo dall'estero, i paesi che ritiriamo dall'estero sono quattro: Germania, Francia, Olanda e Belgio. Due figli in azienda e una terza ancora piccola, poi i nipoti. Laura, che ha 35 anni, laureata, mi segue, diciamo, un po' a livello legale le difese che dobbiamo fare, perché nel caso non facciamo mai nessuno, ci dobbiamo solo difendere. Mentre mio figlio Oscar, ha 32 anni, mi segue gli acquisti e una parte di produzione. Un'altra bambina piccola che si chiama Marina e ha 4 anni. E anche due nipotini, uno di 3 e uno di 1 anno. Potrebbero rappresentare, anche se non subito, la prossima generazione alla guida dell'impresa di famiglia. Probabilmente, io penso di sì, sarebbe un orgoglio, una soddisfazione per tutti. Comunque, siccome io non mi sento vecchio, ho 57 anni, per cui fino a che ci sono penso di poter gestire. Chiaramente è molto importante che i figli ti aiutino, perché tutte le cose di fiducia è giusto che te le sia un figlio piuttosto che te le sia un collaboratore di fiducia. Però chiaramente, visto che il nostro è un po' come una vocazione, no? Cioè noi non facciamo gli imprenditori solo per i soldi, perché altrimenti chissà quanti potrebbero smettere vendere e girare il mondo con la barca, no? Per cui una volta entrati in questo meccanismo, uno lo fa anche perché ha delle soddisfazioni e anche perché fa parte un po' della nostra vita. Perciò che ci sono i figli, meglio, e magari un domani potranno gestire loro. Tanto nessuno è eterno qua.